si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno a tutti e buon sabato, ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare. Quando sono le 7:33 minuti di sabato mattina, ricomincia una nuova puntata di Si può fare. Cominciamo tra poco con una lettura dei giornali di oggi, una veloce rassegna stampa che ci porterà fino al giornale radio delle 8. Poi riprenderemo con i nostri approfondimenti, parleremo, è vero che nella settimana in cui i dati dell'INPS mostrano che i giovani non andranno in pensione prima dei 75 anni, ammesso che ci vadano in pensione, perché ammesso che possano averlo trovato un lavoro e hai voglia di fare esperienze di lavoro in 75 anni, fino a 75 anni, questa potrebbe essere la buona notizia, ironicamente parlando naturalmente. Insomma, in questa settimana vogliamo concentrare l'attenzione su un fatto: la possibilità di fare il servizio civile volontario, una possibilità che molti giudicano positivamente. Il governo ha rifinanziato questa legge. Un tempo il servizio civile era obbligatorio, si iniziava a fare una esperienza formativa e che in alcuni casi era anche l'inizio di una esperienza professionale che poi ti portavi avanti magari per tutta la vita. Ebbene, 450 euro al mese non sono granché, ma sono pur sempre meglio di niente in un momento nel quale molti, moltissimi giovani non riescono a trovare un lavoro. Partiremo da qua, questo però dopo il GR delle 8. Adesso iniziamo con i giornali. Prima vi ricordo i nostri contatti se volete cominciare a interagire con noi fin da subito: 349-238-6666 per gli sms, anche su WhatsApp. La pagina Facebook del programma la conoscete, Si può fare trattino radio 24, l'account Twitter è @ Si può fare 24, il mio account personale è @ Ale Maurizi. Vai. E allora, lo scontro tra i magistrati e la politica, di nuovo con le dichiarazioni del presidente dell'ANM Davigo e le reazioni da un lato del CSM, dall'altro anche di esponenti, insomma, del Partito Democratico, della maggioranza. Questo sicuramente con l'intervista a Raffaele Cantone sul Corriere da parte di Aldo Cazzullo, che corregge un po' il tiro di Davigo, ma insomma lo sappiamo che Cantone ha delle posizioni sicuramente magistrato, non voglio dire non allineato con le correnti della magistratura organizzata, ma insomma ha delle posizioni un po' defilate, e forse è anche per questo che è il magistrato che piace a Matteo Renzi. Poi l'accordo, la firma dell'accordo sul clima all'ONU, c'è anche questo sui giornali di oggi, e anche un po' di altra politica estera, per esempio con quel mezzo attacco del sindaco di Londra a Obama, Boris Johnson, che insomma, a proposito del presidente americano Barack Obama, partiamo proprio di qua, da questa curiosità. Il sindaco di Londra che dice: Obama è un ipocrita, è un mezzo keniano, a proposito delle posizioni del presidente americano Barack Obama, che si è detto insomma favorevole al fatto che la Gran Bretagna resti all'interno dell'Unione Europea. Ieri appunto con una intervista sul Sun, Boris Johnson, il sindaco di Londra, ha usato appunto queste sprezzanti parole, scrive il Corriere: Obama è un mezzo keniano, ce l'ha con l'impero britannico, ed è per questo che solo perché è keniano, e qui c'è diciamo la velata accusa razzista nei confronti di Obama, solo per questo motivo sarebbe pregiudizialmente contrario alla Gran Bretagna. Boris Johnson ha ritirato fuori anche una vecchia accusa di avere rimosso dalla Casa Bianca il busto di Winston Churchill appena dopo il suo insediamento alla Casa Bianca da parte del presidente Obama, ma questo è una cosa mai confermata, un falso mito che però insomma il sindaco di Londra ha voluto ritirare fuori. Ma il titolo principale del Corriere è questo: politica e giudici, nuovo fronte. Lo scontro, l'allarme sulla corruzione lanciato dal leader della ANM nell'intervista al Corriere, appunto Davigo, ed ecco anche perché il Corriere cavalca un po' questa notizia. Si apre un nuovo fronte tra la politica e i magistrati dopo l'intervista al Corriere di Pier Camillo Davigo, nella quale il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, lo ricordiamo per chi si fosse distratto, è il sindacato dei magistrati, Davigo lanciava l'allarme sulla corruzione dicendo che i politici rubano più di prima, solo che ora c'è meno vergogna. Poi è intervenuto il CSM, l'organo di autogoverno dei magistrati, le accuse alimentano i conflitti, ha detto il CSM, bacchettando un po' Davigo sul fronte politico. Naturalmente i 5 Stelle si schierano sulle dichiarazioni di Davigo, così come anche la Lega. Leggiamo però, interessante, l'intervista, dicevamo, del presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone, che dice: le manette da sole non bastano, anche la magistratura ha le sue colpe. Domanda di Aldo Cazzullo. Davigo sostiene che in Italia hanno vinto i corrotti. Lei è d'accordo? Assolutamente non sono d'accordo. Dire che tutto è corruzione significa che niente è corruzione. Il pessimismo fine a se stesso diventa una resa, e questa resa nell'Italia di oggi non c'è. E fin qua siamo, diciamo, alle divergenze di visione un po' del mondo tra pessimisti e ottimisti. Tra appunto presidente dell'autorità anticorruzione Cantone e Pier Camillo Davigo, storico magistrato di Mani Pulite. A proposito di Mani Pulite, dell'inchiesta Tangentopoli, dice Cantone: è vero che Tangentopoli non sradicò la corruzione, che è continuata come un fiume carsico, ma ora vedo molte persone che vogliono provare a uscirne e pensano che la soluzione non sia solo la repressione, che la ricetta non sia solo la stessa del 1993, cioè di Tangentopoli e di Mani Pulite, che all'evidenza, dice Cantone, ha fallito. Uno non può ripetere le stesse cose a distanza di anni e dire che è sempre colpa degli altri se le cose, scusate, se le vecchie ricette non hanno funzionato. Cosa intende? L'idea che tutto si risolva con le manette è stata smentita dai fatti. La repressione da sola non funziona, colpisce ex post, spesso in modo casuale. La prevenzione a tempi più lenti, ma in paesi del nord Europa dove la corruzione è bassissima la prevenzione ha funzionato. E poi, insomma, a proposito del rapporto con Davigo, dice: io lo stimo, sono stato tra i primi a fargli gli auguri quando si è insediato come nuovo presidente del sindacato dei magistrati, condividiamo l'amore smisurato per la magistratura, ma l'amore, questa è proprio una dichiarazione da innamorati, dice, l'amore porta lui a vedere solo gli aspetti positivi della magistratura e a me però anche a vedere gli aspetti critici. E qua si aprono le divergenze tra Cantone e Davigo. Molto spesso la magistratura non riesce a dare risposte ai cittadini perché è sovraccaricata di compiti non suoi, si pensa che debba occuparsi soprattutto dei grandi temi, pensiamo alle grandissime inchieste, eccetera eccetera, un po' meno, dice Cantone, nel senso di giustizia individuale. Sul piano dei tempi della prescrizione, per esempio, la risposta è insufficiente. Si può sempre dire che la colpa è degli altri. Io mi ribello a questa logica del fortino assediato. La magistratura ha, sì, meriti eccezionali, ma sarebbe scorretto non evidenziare che certi meccanismi organizzativi non funzionano. Qua c'è l'accusa in qualche modo, non tanto a Davigo quanto all'organizzazione delle procure, dei tribunali, e quindi un po' anche a come si organizza il CSM, l'organismo di autogoverno dei magistrati, dice Cantone. Insomma, ci sono testimoni che sono andati 10 volte ai processi e 10 volte sono stati rimandati indietro senza essere ascoltati. Ci sono uffici giudiziari che danno risposte, altri che non le danno. E questo è un po' l'accusa di Cantone alla magistratura, a dire: Davigo, hai ragione, nel paese c'è corruzione, però non possiamo buttare la palla nel campo dei politici, dobbiamo fare anche qualche autocritica nel campo dei magistrati. Poi la domanda di Cazzullo dice: sì, però Cantone, il sentire diffuso è che il governo stia facendo poco contro la corruzione e che lei, Cantone, si è usato un po' come foglia di fico, cioè messo lì a dire: facciamo la lotta alla corruzione, vedete, abbiamo messo Cantone, però poi di fatto non succede niente. Cosa risponde Cantone? Io sto ai fatti, tutte le volte che c'era da criticare il governo non mi sono tirato indietro. Il primo a denunciare il rischio dell'innalzamento dei contanti a 3.000 euro, ricorderete la misura proposta e poi attuata dal governo, sono stato io. ma per la prima volta oggi in Italia c'è un'autorità indipendente contro la corruzione, cui sono stati dati poteri, secondo una visione nuova che non è affatto alternativa alla magistratura, al contrario di quel che qualcuno tende a pensare. L'OCSE, che bacchetta sempre l'Italia, ha elogiato il lavoro nostro, dell'autorità anticorruzione, sull'Expo, per esempio. Il nuovo codice degli appalti, ancora un altro esempio, ci attribuisce poteri autentici. E qua finiamo il capitolo magistrati. Vabbè, insomma, se non sfiorando i titoli degli altri giornali, Davigo contro i politici, gelo del CSM, questo scrive La Stampa, oppure Repubblica, Davigo accusa, scontro sulla giustizia, però poi c'è anche il commento, sì, di Giovanni Bianconi, solitamente ben informato, giornalista del Corriere, sulla questione della magistratura, che dice, a proposito di Davigo: nemmeno chi temeva la sua eccessiva irruenza mediatica tra i colleghi che hanno eletto lui presidente dell'ANM pensava che il problema si sarebbe materializzato così presto. Ad appena 2 settimane da quella scelta, le toghe delle altre correnti si trovano a fare conti con un capo che, hanno commentato tra loro ieri per tutta la giornata, sta schiacciando l'ANM, il sindacato dei magistrati, su posizioni che sono le sue e non sono le nostre. Cioè a dire che, insomma, Davigo esprime posizioni molto personali, ma non le posizioni di tutti i magistrati. Per il giornale invece, c'è in atto un'altra questione, che è questa. Perché Renzi se ne sta in silenzio, non commenta, non contrattacca, e perché da tempo invece il governo ha iniziato un'ipotesi di stretta sulla questione delle intercettazioni? Perché la grande paura, è il titolo del giornale, intercettazioni su Renzi. Dopo che l'ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli lo ha detto, e dopo che anche ieri Giuliano Cazzola ha rilanciato questi rumors, si parla sempre più forte del fatto che il premier Renzi tema che possano finire in pasto ai media alcune conversazioni sue imbarazzanti. E questo, diciamo, è un titolo ipotetico, perché naturalmente per ora queste intercettazioni non ci sono, ma chissà che non ci siano presto. Traffico, torniamo tra un attimo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora di nuovo buongiorno cari ascoltatori da Alessio Maurizi, quando sono le 7:46 minuti stiamo dando una sfogliata ai giornali di oggi che per esempio con Libero si occupano ancora, sempre con lo stesso taglio visto fino adesso, però leggiamo sulla questione politica magistrati. Davigo suona i tamburi di guerra, dai giudici avviso a Renzi, nuovo presidente dell'associazione magistrati spara zero contro i politici, al presidente del consiglio fischiano le orecchie, pare che la magistratura sia di nuovo scesa in campo, ne vedremo presto delle belle. E insomma anche in altre retroscena, quello che stavamo dicendo prima, si sussurra che Renzi tema un agguato delle toghe nei confronti suoi e del governo, che ci siano in ballo, insomma, delle intercettazioni o delle notizie da qualche procura che potrebbero metterlo nei guai. Sempre Libero, però, intervista Matteo Salvini, siamo sempre nel campo del centrodestra, ma sul tema delle prossime elezioni amministrative. Intervista a Salvini che scarica il cavaliere: Berlusconi ha perso la bussola, sono stufo, se a Roma non vuole appoggiare la Meloni faccia pure questo altro favore a Renzi. In effetti a Roma sta succedendo tutto il contrario di tutto. Giorgia Meloni ha rotto l'indugi dopo tanto tempo, si è candidata, ha ottenuto il sostegno di Salvini, va forte nei sondaggi, Forza Italia è tentata da Marchini, è tentata da Meloni, di votare la Meloni, tutto tranne che votare quello che sarebbe il candidato ufficiale, che sarebbe Guido Bertolaso, che va avanti, dice lui, però c'è da aspettarsi che prima o poi ci sia uno smottamento, e visto che i consensi previsti dai sondaggi per Bertolaso non sono molti, potrebbero mollarlo tutti e via andare. E Salvini dice, risponde alla domanda, insomma, a Roma ognuno per conto suo, allora nel centrodestra Ovunque vada trovo piazze piene, entusiasmo, dice Salvini. Questa settimana sono stato a Grosseto, a Latina, in Romagna, nelle Marche, tutte realtà dove non ci sono problemi con gli alleati. Anche in città difficili con la sinistra al potere da una vita ho visto coalizioni compatte con candidati sindaci in gamba. Non stiamo parlando naturalmente di Roma. Forza Italia a Roma ha perso la bussola, cambia idea ogni quarto d'ora, ognuno dice la sua, noi abbiamo le idee chiare, puntiamo al ballottaggio con Giorgia Meloni, ci saranno almeno altre tre liste in appoggio. E va bene, insomma, questa è l'intervista di Salvini che va avanti, mentre per quanto riguarda le rilevazioni c'è un sondaggio sempre sul Libero che dice... Virginia Raggi, candidata al Movimento 5 Stelle, attualmente accreditata di un 27%, Giorgia Meloni, accreditata di un 21%, al secondo posto, Roberto Giacchetti, candidato del PD, al 19,5%, accreditato di un terzo posto, che con il sistema elettorale dei comuni equivale ad una sconfitta sicura e al ballottaggio andrebbero il centrodestra con il Movimento 5 Stelle. Non è neanche strano come risultato, oddio, sì, insomma, in una città che sta amministrata con risultati non brillantissimi dal centro-sinistra, soprattutto per come è andata a finire con l'addio di Marino, e quindi insomma si prefigura un cambio della guardia nella capitale. Torniamo però ai temi di Prima Pagina, per esempio. Vabbè, intanto facciamo un passaggio anche sul Sole 24 Ore, che titola sui bond sovrani, stop dell'Europa a Berlino, Germania in trincea sulla garanzia unica sui depositi, esame rinviato. Sapete che era all'ordine del giorno dell'Ecofin questa possibilità, cioè mettere un limite al tetto degli acquisti di titoli pubblici da parte delle banche, ma il no di Italia e Francia ha fatto sì che l'esame di questa cosa venisse rinviata, e quindi c'è uno stop alla Germania che vuole ridurre, scrive il Sole 24 Ore, i rischi nei bilanci bancari prima di accertare le garanzie uniche dei depositi, ma per ora appunto nulla di fatto all'Ecofit. Poi sul fronte delle informazioni di servizio, sul Sole 24 Ore di oggi, fisco e rate, come rimettersi in regola, arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sulla possibilità offerta ai contribuenti di rimettersi in regola con le rate nel caso in cui siano stati saltati in passato degli appuntamenti alla cassa. E quindi, cari ascoltatori, se avete avuto questo genere di problemi, oggi è il caso di comprare in edicola il Sole 24 Ore, dove trovate tutto su questo. Ma dicevamo, il clima, l'accordo ONU, scrive Repubblica come titolo principale, sul futuro della Terra, così la salveremo. Storico sì di 175 paesi che puntano su rinnovabili e limiti alle emissioni, con la foto quasi dappertutto di Leonardo DiCaprio, testimonial di questo accordo, ieri alle Nazioni Unite, l'attore... celebre attore americano impegnato anche lui come molte star hollywoodiane a prestare il proprio volto per questo genere di battaglie. Di che si tratta? Insomma, è stato il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon dice è una giornata che può essere storica. Attenzione, perché quando parliamo di questo genere di accordi bisogna sempre leggere un po' tra le righe e interpretare anche il senso di queste diplomazie a lavoro, di questi accordi importanti, ma che poi gratta gratta cosa resta? Resta che gli impegni presi da COP21 a Parigi, se con queste ratifiche che sono in corso, ieri ce ne sono state 175, mancano quelle di Cina e Stati Uniti, che da sole valgono un terzo, anzi forse quasi metà, il 24 più il 12 quanto fa? Sì, il 36% dell'inquinamento globale, cioè mancano questi due piccoli dettagli che però dovrebbero arrivare. Quindi se verranno mantenuti, dice Ban Ki-moon, siamo di fronte a una svolta storica. L'appuntamento di New York giunge a 4 mesi dall'accordo di Parigi, la cerimonia al Palazzo di Vetro è l'endorsement formale dei governi a cui devono seguire le ratifiche, quindi 175 governi hanno detto sì, dovranno ratificarlo. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, siamo messi così. Barack Obama sa che il Congresso a maggioranza repubblicana, almeno fino alla fine dell'anno, non glielo passerebbe, perciò ha voluto che l'accordo di Parigi fosse giuridicamente diverso da un trattato vincolante. In questo modo la ratifica sarà un atto dell'esecutivo, cioè del governo, cioè dell'amministrazione Obama, cioè dei democratici, e non del Parlamento, del Congresso, che non gliel'avrebbe votato. La Cina, invece, come è messa? Prima potenza inquinatrice del pianeta in quanto a emissioni totali di CO2, si impegna a ratificare l'accordo entro il G20 di settembre, che si terrà sotto la sua presidenza. E quindi staremo a vedere i punti principali dell'accordo. Li ricorderete, sono il contenimento del riscaldamento climatico sotto 2 gradi di aumento della temperatura a 1,5 gradi, una revisione ogni 5 anni di questi accordi, 100 miliardi di dollari all'anno a partire però dal 2020 dai governi dei paesi ricchi ai paesi poveri per sostenere lo sviluppo sostenibile e arginare così desertificazioni e inondazioni in quei paesi. Siamo in chiusura, l'anniversario di Chernobyl sulla prima del Corriere, 30 anni dopo, turisti nella città sospesa, e Chernobyl, un mondo sospeso nel tempo. La notte del 26 aprile 1986 il reattore numero 4 della centrale nucleare esplode durante un test di sicurezza. Nell'atmosfera viene dispersa una quantità enorme di radioattività. Le stime ufficiali parlano di 65 morti, ma altri rapporti stimano tra 9.000 e 9.000 vittime di tumori e leucemie nel corso degli anni. Ne parleremo, perché l'anniversario è il 26 aprile. Ci fermiamo qua, è tutto. Adesso c'è il giornale radio, noi ci risentiamo subito dopo con Si può fare, dopo il GR. Ciao. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funky up. Uptown funky up. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, da Alessio Maurizi ben ritrovati. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. Quando sono le 8 e 20 minuti riprende una nuova puntata di Si può fare, il buongiorno del weekend su Radio 24, vi aspettiamo al numero verde 800 24 00 24. Chiamate numerosi, chiamate per commentare quello che sentirete tra poco. Parleremo del rifinanziamento, la legge sul servizio civile è o non è una opportunità per i giovani in attesa di un posto di lavoro, insomma nella settimana nella quale purtroppo i dati dell'INPS hanno chiarito ancora una volta che i giovani di oggi non andranno in pensione prima dei fatidici 75 anni. Ma non ho capito se sono quelli nati proprio dopo l'80, nel senso che se uno è nato nel 79 è salvo oppure no. Ma non lo so, guarda, neanche noi andremo in pensione molto prima di quell'età. Forse molti di noi non andranno proprio in pensione, non avremo una pensione, avremo delle pensioni, sì, io forse sì. Ma sì, speriamo di sì. Io no, ma io no, perché facendo l'attore è molto più non difficile. Non è una cosa c'era da attore, la pensione, non sia, no, cioè, questo abbinamento si muore in scena, si muore in bravo. Scena. Quindi tutta la vita. Hai voglia te a fare esperienze di qui ai 75 anni. Questo è l'aspetto positivo, no? Cioè, farai tantissime esperienze professionali. Gratificante. Sì, bisogna vedere. Speriamo. Se sono contenti di spettatori. Stai dicendo che fino ai 75 anni non mi stacco da questo microfono? Esatto. Bisogna anche lasciare spazio ai più giovani. Esatto, ma noi come sempre ci concentriamo su un'altra notizia, che è appunto questa: il rifinanziamento della legge sul servizio civile. Ci sono dei bandi che stanno per scadere adesso. L'obiettivo del governo è l'anno prossimo arrivare a 100.000 giovani che possono fare questa esperienza. 430 euro al mese non sono tanti, ma insomma meglio di niente. È meglio di niente, assolutamente, nel senso che sia un'opportunità. Direi che lo è di sicuro. Quello che chiedevi anche tu è capire se è una buona notizia, anche esatto. Perché sappiamo quanto poco lavorano i giovani, perché non c'è lavoro. Ci si chiede anche, nel momento che tu immetti 100.000 persone che lavorano pagate dallo Stato, se tutto il lavoro se lo prendono loro. E allora 800 24 0024 anche per giocare con noi questa mattina. Vogliamo giocare come Fazio con l'effetto nostalgia, perché vogliamo aiutare Fazio. Beh, non ha bisogno, perché ha fatto due puntate. La prima ha avuto uno share altissimo, il 30%. Non so la puntata di ieri come è andata. Stiamo aspettando i dati. Molto bene, rischia tutto. Il programma di Mike Buongiorno, storico, riportato in televisione da Fazio. Allora, però, vale tutto. Ascoltatori, voi cosa rivorreste di quegli anni lì? Cioè, non lo so, Goldrake, il cartone animato. Studio 1. Io penso, cosa rivorrei? La tribuna elettorale, quella in cui tutti i politici si parlano uno sull'altro col moderatore. Beh, quella c'è. C'è quella, ognuno che parla per sé, È che non c'è più Andreotti, tu volevi quella. Cioè, sono cambiati i protagonisti, però. Forse rivorrei anche quelle tribune lì con Craxi, no. Andreotti, Berlinguer. Manco ero nato, tra un po'. No, c'ero con Berlinguer. E per fortuna, beato te. In realtà è interessante vedere, nel senso che rischia tutto, è stato ripreso da Fazio, capire che cose. Per questo dico, stiamo aiutando Fazio per consigliare altri programmi da recuperare. Quindi, che cosa vi manca della TV di una volta e che cosa recuperereste voi, che cosa vorreste che venisse rifatto? Come sempre, la telefonata più bella che ci convince di più porta a casa il catalogo e i biglietti, in questo caso della mostra di Miro al MUDEC di Milano. Vale anche, per esempio, dire cose tipo, che so, rivorrei Ursula Andress seduta sulla Vespa, una foto degli anni 50, vagamente scosciata, perché adesso si festeggiano i 70 anni della Vespa, che nasce a Genova. Oggi sul secolo XIX c'è una bellissima foto. Beh, vale anche questo. Anche gli oggetti, poi giustamente, finito il salone del mobile, non possiamo assolutamente non occuparci anche di quello. Tra l'altro, proprio in questa linea ho visto che nel car sharing, di cui parliamo spesso, la stessa Enjoy mi sembra ha iniziato a fare il car sharing anche con la vecchia 500. Vedi. Cioè, loro lo fanno con la 500 nuova, ma fanno anche un car sharing, come si chiama, vintage. Effetto nostalgia, vi aspettiamo, ascoltatori, vai. Questa We Are Golden di Mika, l'età d'oro, insomma, è quella dei 20 anni o poco più. Ed è quella nella quale, di nuovo in Italia, si offre la possibilità ai giovani di fare il servizio civile, lo storico servizio civile. Anche questo è un po' effetto nostalgia, è con noi. Ah, giusto. Certo, perché questa è una cosa, quando era obbligatorio, dei nostri anni. È tutta una puntata effetto nostalgia, mi piace molto. È con noi Luigi Bobba, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Buongiorno, buon sabato. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie per essere con noi di sabato mattina, sottosegretario. Allora, perché dal vostro punto di vista rifinanziare questa legge è una buona notizia per i giovani d'oggi? Ah, intanto voglio dire che tra il 2014 e il 2015 siamo passati da 15.000 giovani a circa 50.000 giovani che hanno avuto l'opportunità o stanno per averla per entrare a fare un'esperienza di servizio civile e chiariamo subito, si tratta di un servizio civile volontario, appunto una volta era obbligatorio nel senso che era alternativo a quello militare, chi faceva l'obiezione di coscienza, adesso dal 2001, sono 15 anni, il servizio civile è volontario, quindi lo si può fare se lo si chiede di fare, no? Vorrei anche far osservare che con la legge di stabilità sono stati disposti altri 200 milioni, quindi anche in questo 2016, proprio nel mese di maggio, sarà indetto un bando per circa 40.000 giovani in modo da offrire un'opportunità. Non è un contratto di lavoro, questo va chiarito, ma è un servizio che un giovane presta attraverso un ente non profit oppure attraverso un ente pubblico, che presta alla comunità in vari campi, dalla protezione ambientale all'educazione, dalla cura delle persone diciamo con una qualche disabilità alla diciamo socializzazione di sì. Persone con scusi se la interrompo, lei dice prego. Giustamente non è un contratto di lavoro, ci ricorda, però c'è un corrisposto, un rimborso, un'indennità, un'indennità. Di e quanto? Con i tempi che corrono, 430 euro al mese, qualcuno potrebbe anche dire beh, non è un lavoro, però quasi un mezzo sempre stipendio. Meglio che niente. Sì, infatti io credo che oggi il servizio civile abbia sostanzialmente tre volti. Uno, che effettivamente un servizio che si fa ad una comunità, in particolare magari a persone più in difficoltà. Due, è un'esperienza anche di impegno civico e volontario da parte del giovane. Terzo, è un mettersi alla prova anche con questo diciamo piccolo compenso sulle proprie competenze e capacità, e poi utilizzare al meglio queste competenze e capacità per un successivo percorso lavorativo professionale, tant'è che nella nuova legge noi prevediamo anche una validazione delle competenze che si vanno ad acquisire in questo tempo in cui si va a fare il servizio civile. Quindi ha diciamo oggi una motivazione più variegata quella del servizio civile, certo. E va accolta diciamo in tutte queste dimensioni, anche quella di un'opportunità comunque, anziché star lì diciamo così ad aspettare magari un lavoro che non arriva, di cominciare a mettersi la prova, a diciamo mettere in gioco le proprie capacità e i propri talenti, sì. E in questo modo iniziare diciamo così a fare qualche cosa di utile per sé e per gli altri. Voglio farle una domanda di un ascoltatore, giro la domanda di un ascoltatore che in realtà non è una domanda ma è un'affermazione, che dice: il servizio civile è sempre stato un sistema per avere manodopera gratuita da parte degli enti convenzionati. Dico io una cosa a questo ascoltatore, che spesso capita di parlare con dei ragazzi che fanno dei colloqui per dei posti di lavoro, o anche con chi fa i colloqui dall'altra parte, e si domanda: hai mai fatto esperienze dopo lo studio? No, non ho mai fatto niente. E quindi non si riesce a rompere il ghiaccio, no, del passaggio dallo studio al lavoro. Il servizio civile può essere una cosa che ti dà una mano a sbloccarti. Questa è una prima risposta. Però lei cosa risponde a chi invece dice che è lavoro mascherato? Ma guardi, intanto la legge vieta di utilizzare ragazzi in servizio civile per sostituire personale che non c'è. In secondo luogo, più dei due terzi di questi ragazzi sono impegnati in enti di tipo associativo, in organizzazioni di volontariato e cooperative che hanno una finalità non precipuamente di carattere economico e lavorativo. In terzo luogo, comunque è un'esperienza che viene fatta, che va in qualche modo a integrarsi a delle altre risorse che sono presenti in quelle organizzazioni, e viene fatta con una finalità che non è diciamo a favore dell'organizzazione che forma, seleziona e ingaggia il giovane, ma a favore di qualcun altro che presenta un determinato bisogno particolare, quelli che ho detto prima, quindi una finalità esterna, non interna all'organizzazione, anche perché queste organizzazioni, non avendo finalità di profitto, non è che prendono questi giovani per guadagnarci, tra virgolette. E in realtà non potrebbero permetterseli in altra maniera, molte volte, giusto? Sì, però questo... No, ma è buono questo, mi sembra il positivo, nel senso che è un sennò... investimento anche che noi come paese facciamo sulle reti associative e volontarie, che sono una risorsa altrettanto importante di questo paese, insieme a quelle professionali e lavorative. Credo che l'Italia sia ben conosciuta proprio per questa capacità di mobilitare tante energie di carattere volontario, e d'altra parte l'impegno civico, la cittadinanza attiva credo che rendono un paese anche più solidale e più coeso. Esatto, infatti io era questo in realtà, prima quando lei elencava gli obiettivi e diceva giustamente servizio, esperienza e mettersi alla prova, in realtà io penso che sia anche, ci sia anche un obiettivo di coesione sociale proprio, di questo, giusto? Assolutamente sì. Proprio poco più di un mese fa siamo stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Mattarella insieme con 200 giovani proprio in occasione dei 15 anni del servizio civile, e le testimonianze dei ragazzi che hanno parlato lì di fronte al Presidente erano esattamente questo, di chi faceva educazione alla legalità nella scuola, da chi si occupava dell'inserimento, la socializzazione di persone con qualche disabilità, da chi anche un cittadino, diciamo non italiano, straniero, ma regolarmente residente, che da quest'anno ha potuto fare il servizio civile, si occupa, diciamo, dei migranti e dei rifugiati, cioè quindi tutte azioni che concorrono a migliorare la vita di tutti e soprattutto a migliorare la vita di coloro che rischiano di essere o che sono effettivamente esclusi. Poi ricordiamo anche che si possono fare 2 mesi all'estero, per esempio, questa è una possibilità, perché può... Questo ancora non è legge, è una, sì, è contenuta nel disegno di legge. È una possibilità che, sì, che dovrebbe essere concluso entro il mese di maggio-giugno, a quel punto ci sarà anche questa opportunità di poter fare una piccola parte del servizio anche in un altro paese. Così come inserire poi nel curriculum degli studi, vero? Anche questa è un'ipotesi su cui si sta lavorando? Sì, sì, sì, è sempre contenuta in questo articolo di riforma della legge la possibilità che le competenze vengano validate e in qualche modo uno abbia un punto di riferimento che può, diciamo così, essere speso, tra virgolette, nel momento in cui poi si inserisce in un percorso lavorativo e professionale vero e proprio. Senta, ci ricorda anche chi fosse all'ascolto, che possa essere interessato a fare il servizio civile, cosa bisogna fare? Perché un tempo, quando è toccato a me, per esempio, ti venivano a cercare a casa, era l'alternativa al servizio militare. Anzi, eri felice che fossero, sì, quelli del servizio civile, perché voleva dire che non avresti fatto il servizio, esatto, militare, magari sei un obiettore di coscienza. Esatto, invece oggi bisogna in qualche modo andarsela a cercare. Come si fa ad aderire al bando? Dunque, la procedura è questa: il Dipartimento per il Servizio Civile emette di volta in volta dei bandi a cui aderiscono le organizzazioni, gli enti, le istituzioni che decidono di utilizzare, di impiegare, di avere in servizio dei ragazzi. Successivamente, quando i progetti di questi enti sono approvati perché ritenuti qualificati e conformi alle finalità della legge, viene emanato un bando di diverse migliaia a seconda delle situazioni dei giovani. I giovani a quel punto possono vedere quali sono gli enti che hanno presentato i progetti, li hanno avuti approvati, e dire: voglio andare a fare il servizio civile per questo progetto con questo ente, e si iscrivono sul sito di questo ente, diciamo la modalità è comune a tutti gli enti. A quel punto gli enti convocano i ragazzi e fanno una selezione, perché ahimè le domande sono sempre di più di quelli che sono i posti. Ed è per questo che state rifinanziando la legge, per arrivare all'obiettivo di non lasciare nessuna domanda senza un posto, vero? Questo sarebbe l'obiettivo, è l'obiettivo, anche se è un obiettivo ambizioso, speriamo di farcela. Ma quindi in realtà uno può anche decidere che vorrebbe fare il servizio civile in un certo ente e non riesce a andare in quell'ente, ma viene chiamato da un altro ente? Potrebbe anche esserlo, se l'altro ente non ha trovato, diciamo, nessuno, può andare a cercare, diciamo, direttamente fra i giovani comunque che hanno presentato la domanda. Certo, no, perché mi chiedevo se c'era anche quella cosa che era molto in realtà utile, forse la più utile del servizio militare, che era anche il fatto di spostare i ragazzi, andare in un'altra città, esatto, sul territorio. Forse qua è più difficile, perché in realtà ovviamente gli enti non garantiscono il vitto e l'alloggio. Ma diciamo, un giovane può scegliere, diciamo, che cosa se rimanere, diciamo, nella zona di casa oppure nella zona dove ha studiato, cioè, certo, dipende poi dalla scelta del giovane, dall'interesse specifico che ha per quel determinato progetto. Va bene, grazie sottosegretario Bobba. Grazie mille. Grazie per essere stato con noi. E insomma, questa è la notizia da cui siamo voluti partire oggi sabato. La possibilità, il bando, che per adesso non garantisce a tutti quelli che lo richiedono di fare il servizio civile, ma l'obiettivo è quello di arrivare a garantire, a rispondere a tutte le domande. Se vi siete fatti convinti, chiamateci 800 24 00 24, oppure se invece questa ricetta di passaggio al mondo dello studio, al mondo del lavoro, non vi ha convinto, ma anche come elemento di coesione sociale, chiamateci lo stesso, il numero è sempre quello, 800 24 00 24, tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno. Ascoltatori, allora al 342-238-6666 ci scrive un ascoltatore che chiede: per il servizio civile bando di maggio, quale sito su internet bisogna rivolgersi? In effetti noi abbiamo chiesto a Bobba di dare l'indicazione, però lui ha fatto una risposta un po' generica. Sì, e... più dalla parte dell'organizzazione, sì. Però c'è un sito, mi sembra semplice, che è www.serviziocivile.gov.it e lì si trova tutto, sia dalla parte dei volontari sia dalla parte degli enti. Oppure quindi basta andare in forma giovani, quelli sportelli che ci sono nei comuni o anche nelle università. Marcello da Milano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire, Marcello? Io volevo dare il nome della trasmissione che piacerebbe poter rivedere. Effetto nostalgia, quale esatto, sarebbe? Infatti. In realtà sarebbero due, però vabbè, cito la prima in assoluto per quanto mi riguarda. Una per volta. L'altra domenica di Arbore. L'altra domenica? Anno? Sì. E siamo intorno al 1976-77. Cioè è prima di quelli della notte? Esatto, quelli della notte arriva negli anni intorno all'84-85. Infatti l'altra sarebbe stata l'altra. Ah, perfetto, mi trovavi più preparato su quelli della notte. Perché io ho 56 anni, quindi sono qualche anno più di voi, forse. Senti qua, senti qua, Marcello. Senti, senti. Ogni giorno la vita è una grande cosa. Ah, che meraviglia. Sì, sì. Un grande divertimento, una grande ironia, un grande altro che rischia tutto, mi viene da dire. Hai citato un grande maestro, quindi già ne siamo. Però anche rischia tutto è stata, secondo me, un'idea intelligente. Comunque è un modo intanto pulito ed essenziale di fare televisione. Poi sai qual è il problema? È che rifare rischia tutto, basta chiamare dei candidati che vengono a rispondere a delle domande di un quiz. Per rifare quelli della notte ci vorrebbe quella schiera di personaggi strani, strepitosi, straordinari, comici, meno comici, che erano sì, la alcuni ci sono ancora ed erano dentro rischia tutto. Sì. Cioè, tipo Nino Frassica. È vero, Frassica. L'anello di congiunzione è quello, Frassica, che è da tutte le parti. Che è trasversale sulla storia della TV, assolutamente. È sempre strepitoso. Va bene, Marcello, grazie mille. Grazie. Beh, insomma, grazie a voi, buona giornata. Con questa risposta ti candidi bene, ben giustificato, anche perché ha fatto proprio il percorso dall'altra domenica fino a quelli della notte, quel tipo di televisione lì. Effetto nostalgia assolutamente colpito affondato per quanto mi riguarda. Ines da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Niente, ho telefonato sentendo la domanda, la cosa mi interessa molto. In genere sento ma non partecipo. Niente, praticamente, visto che voi dite cronaca di un paese migliore, io vorrei un paese migliore attraverso delle persone che ha fatto dei programmi con una grande professionalità, competenza, secondo me preparazione, come Enzo Tortora, Gloria De Antonio, Oreste De Fornari, che oltre alla professionalità avevano un garbo eccezionale per quanto mi riguarda. Ah, quindi il garbo non molto giusto, secondo giusto. Me competenza oltretutto. Dica. Però deve sceglierci un programma che vorrebbe. Ci dica il nome di un programma. Ecco, io mi ricordo i nomi, per esempio, di Gloria De Antoni, ma non mi ricordo il programma. Lo conduceva insieme a Oreste De Fornari, comunque, ai tempi. Vabbè, diciamo, Tortora possiamo Portobello. Dire Portobello. Però di quelle altre due persone che non le vedo in televisione, che sinceramente a me mancano, perché era una televisione un attimino diversa e secondo me, a parte l'ironia, con molta intelligenza. Ecco, a me mancano quelle persone lì, perché vedo tante persone che dicono di tutto di più, ma sinceramente non dico niente. Sì. E

poi dobbiamo prendersi anche le responsabilità di quello che accade con la nuova tecnologia, con tutte le situazioni che poi oggi sono alla mercé di tutti con molta facilità. Giustissimo, infatti lo stesso istituto scolastico che si è difeso quando gli è stato chiesto come mai i carabinieri ha detto perché i genitori hanno chiamato i carabinieri, quindi i carabinieri sono stati obbligati in quanto diciamo parte offesa a intervenire, quindi di nuovo è giustissima la cosa che stai dicendo, è di nuovo una questione di ignoranza e dei genitori che volendo controllare i figli chiamano i carabinieri, quando in realtà, perdonami, ma avrebbero dovuto chiamare te. Ah guarda, è vero, no, è vero. Non lo so, però grazie. Te o allora, qualcun altro adesso non era qualcuno che fa il tuo lavoro. Che fa il mio lavoro, certo. Sì. Allora, quello infatti che vorrei fosse chiaro è che l'Italia, e mi dispiace dirlo perché sono in Italia e sono italiano, ancora è veramente indietro rispetto all'educazione sessuale, perché non c'è una regolamentazione giuridica in merito che garantisca una chiarezza rispetto proprio anche ad abbattere l'ignoranza, abbattere i tabù della sessualità. Questo che significa però che, almeno dal mio punto di vista, non è fare i corsi nelle scuole ai ragazzi e magari fatti anche ad hoc perché succede una situazione come questa che avete descritto, ma è farli in maniera tridimensionale agli adulti di riferimento, che sono i genitori, gli insegnanti e gli stessi ragazzi. Quindi tutti solo insieme, in insegnanti, solo... genitori e ragazzi. Attento, non insieme, cioè in maniera gestita. Ognuno per par suo. Ma Fabrizio, ma tutti. A voi vi chiamano a fare questi corsi nelle scuole o no? Assolutamente sì, no, noi ci chiamano, ma ci chiamano troppo tardi, cioè ci chiamano quando? Dopo, quando è successo il fatto. Esatto, quando è successo il fatto, oppure il preside di riferimento di quella scuola decide di fare un qualcosa di innovativo e ci chiama per quell'anno scolastico. Questo ha un significato minimo, perché tu vai... Cioè, come iniziativa classe... estemporanea, noi siamo il paese delle emergenze. Esatto. Si va sull'onda del fatto, si chiama lo psicoterapeuta, poi però l'anno dopo, dal mese dopo, ci si dimentica tutto e non si inserisce. Adesso resta un attimo con noi, facciamo una piccola pausa per il traffico e poi magari invece insieme cogliamo l'occasione per fare un ripassino di educazione sessuale. Per esempio, a quale età oggi è giusto o è possibile avere il primo rapporto sessuale? Ci sono molti genitori di ragazzi all'ascolto a quest'ora su Radio 24, magari anche qualche ragazzo, non credo tantissimi quattordicenni, i ragazzi secondo me dovrebbero essere a scuola, è la coda lunga della discoteca di ieri, quindi esatto, non me li aspetterei troppo qua in ascolto. Oppure sono a scuola perché dovrebbero essere a scuola. Fabrizio Quattrini resta con noi, traffico, torniamo tra un attimo. Onexpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua insieme a Fabrizio Quattrini, sessuologo, e intanto di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno. Cari ascoltatori, vi aspettiamo anche all'800240024 e anche per raccontarci il vostro effetto nostalgia. Che cosa vorreste riavere degli anni passati? Partiamo da Rischia Tutto, il programma, l'idea di Fazio di riportare in TV dopo tanti anni. Un grande successo. Un grande successo. Allora, noi ci siamo detti, beh, vale tutto. Fabrizio, per esempio, tu ce l'hai un effetto nostalgia? C'è qualcosa che vorresti... Guarda, può anche non avere a che fare con il sesso, eh? No, no, sì, esatto. Infatti ci stavo pensando, io sono del 69, che anche questo può dare un significato, certo, alla sessualità. Sei un predestinato, è ovvio. Beh, esatto, però ricordo con piacere Tortora e Portobello, per esempio. Vedi? Sei in linea con la nostra ascoltatrice che ha chiamato prima dicendo questo. È in alta classifica, Portobello ha già avuto due menzioni, quindi ottimo. Quella televisione lì un po' così, un po' garbata, no? Esatto. Un po' familiare, mi familiare. È un po' il clima che si respirava a Sex Therapy, un po' la stessa cosa, insomma. Uguale. Cambiavano solo gli argomenti. Senti Fabrizio, qual è l'età a cui oggi i ragazzi cominciano a fare sesso? Questa ragazzina della scuola di Padova che ha fatto girare malauguratamente, credo, le sue foto su WhatsApp, le sue foto nude, aveva 14 anni. Qual è l'età oggi? Allora, guarda, per i dati, diciamo, Istat, i dati comunque importanti, l'età è questa, cioè nel senso è comunque 14-15 per le ragazzine e un po' più alta per i ragazzini, come al solito noi maschietti siamo un po' indietro. Certo, però poi, siamo però sempre poi, all'inseguimento. Esatto, però poi se andiamo a vederlo, i casi possono esserci anche prima, cioè anche ragazzine di 9-10 anni e ragazzini lo stesso di 10-12 anni. Naturalmente quello che io vorrei che venisse indirizzato come messaggio non è tanto che esiste un'età specifica in cui uno può fare, può iniziare a fare sesso, uno se lo deve sentire. La cosa importante naturalmente è che ci sono dei passaggi evolutivi dove la sessualità acquista importanza e significato, anche se aiutata, anche se indirizzata dagli adulti, no? È quello che dicevamo prima, cioè il fatto di dare appunto delle informazioni corrette in campo di educazione sessuale, permettendo di capire quando è il momento giusto, perché una persona potrebbe farlo anche a 20 anni e è il momento giusto per quella persona, capito? È anche il modo giusto per affrontarlo, perché a 14 anni o addirittura meno, 10-11 anni, come dicevi tu, ci sono anche casi di questione, ci possono essere bambini che si tratta proprio di bambini, magari a 14 anni ragazzini, adolescenti, che hanno anche uno sviluppo mentale tale per cui riescono ad affrontare questa, perché diciamo che è anche una prova, no? la scoperta della sessualità con le spalle larghe. Ci può essere qualcuno che va allo sbaraglio, quindi qualcuno che parli ai ragazzi di questo ci deve essere, e non sempre sono i genitori, no? Perché magari poi i genitori non hanno gli strumenti, non sanno come fare, non hanno tempo. Ma poi è anche difficile, possiamo dire che è difficile per i genitori parlare. I genitori devono parlare di alcune cose sostenendo quello che viene detto dagli esperti, in modo tale da non creare ulteriore confusione. È questo il punto. Ecco perché prima parlavo di dimensione, tre dimensioni, no? Dell'educazione sessuale. Perché il genitore deve permettersi di aiutare rispetto a quello che può aver vissuto in prima persona anche tra il gruppo dei pari, e dall'altro rispetto a quello che potrebbe essere rimandato dagli esperti. Infatti trovo molto giusto anche la cosa che dicevi prima, nel senso che sulla notizia della ragazzina di Padova la cosa che mi colpisce è che la reazione è stata che adesso dei carabinieri della polizia postale faranno dei corsi all'interno di questo istituto. Io invece penso che ci abbia ragione tu quando dici, in realtà qui non è un problema di reato, peraltro, no. È un problema di consapevolezza, di uso del proprio corpo, di sapere che cosa stai facendo, del fatto di sapere, cioè che puoi anche scegliere di farlo da un certo punto di vista, però sapendo che cosa stai facendo. Questo io consiglierei all'istituto di fare un corso. Adesso non posso consigliare di fare un corso con te, perché sennò sembra un continuo endorsement. Esatto. Però diciamo di fare dei corsi, la tematica è quella, la tematica è la sessualità, non è il reato di maluso dei social, ecco. Esatto, sono d'accordo. Tra l'altro c'è una recente ricerca pubblicata su scuola.net in collaborazione con la Società Italiana per la Contraccezione, che rivela una cosa incredibile: tra gli under 14 che fanno sesso, 4 su 10 non hanno mai utilizzato il preservativo. Non voglio dire che non lo conoscano, perché sapranno cos'è, ma non lo usano, quindi evidentemente non percepiscono l'importanza di questa cosa. Posso farti un'osservazione rispetto a questo? Perché ricordo un aneddoto che mi è accaduto in una scuola. Allora, quando io sono andato in una delle tante scuole romane a fare educazione sessuale, era una scuola superiore, quindi erano gli ultimi anni, quindi non erano maggiorenni, ma erano comunque vicini all'età. Erano già tutti padri di famiglia. Esatto. In realtà io ho portato nella lezione, quella che feci proprio sulla contraccezione, il profilattico, cioè volevo farglielo vedere. Non potete capire cosa è successo in quella classe. Non per i ragazzi, per gli insegnanti. Io ricordo sono impazziti. L'insegnante di religione che ha saputo questo e è andata, dopo che siamo usciti, dopo che io sono uscito dalla classe, nel secchio dell'immondizia a prendere il profilattico, e è andata in giro con questo profilattico in mano come se avessimo usato il profilattico facendo sesso. Allora, se questo è il messaggio che viene mandato... Ma non ci posso credere, ma chi era questa pazza insegnante di religione? Ma perché è così? Perché c'è paura di non riuscire a controllare. Allora, quello che io feci in quel momento, che era fuori dal controllo, ma era educativo, per loro diventava difficile da gestire proprio in prima persona. E però mi fai una teatralità tale che crei veramente il disordine scolastico in quel caso, che non va assolutamente bene. Sono contento che abbia raccontato tu questo aneddoto, perché in realtà c'è poco da fare quando si leggono queste notizie di giovani ragazze e ragazzi che non conoscono il preservativo, che decidono di non usarlo. E il primo pensiero è esattamente questo: ricordiamoci quanto viene osteggiato ed è stato osteggiato, cioè, diciamo, non solamente in Africa, ecco, questo è la vera questione. questione. Vuoi vedere che mi torna attuale quella pubblicità, ve la ricordate, dell'insegnante? Di chi è questo? Di chi è questo, no? È il mio, preservativo. È mio. Cioè, però la dicevamo l'altro giorno, Claudia Schiattone, che ha qualche anno meno di noi, beata lei, non se la ricordava questa pubblicità, perché è una pubblicità vecchia. In effetti in TV non è che si vedano molti messaggi, vero Fabrizio, su questo? Guarda, arrivano dei messaggi, ma come al solito potrebbero non essere così sostenuti, mi verrebbe da dire, cioè nel senso che passano però anche in secondo piano. A volte il Ministero fa delle pubblicità anche importanti rispetto a quello che può essere la contraccezione oppure comunque alcune malattie, però poi bisogna educare anche a quello, cioè mi verrebbe da dire. Insomma, forza ragazzi, forza Italia, forza governo, forza Rai, forza scuole, diamoci dentro, forza, non col sesso, che va bene, ma esatto, con l'educazione sessuale. Grazie Fabrizio. Grazie mille. A voi, buon weekend. Grazie, ciao, è sempre un piacere. Ciao. L'acqua fino al collo, generazione a rischio, preciso nel passato, perfetto nel presente, futuro garantito, voglio nulla, voglio composto tra le vie, qualunque sia il mio ruolo, cambiare mezzo mondo è la sola cosa che so. Questa è Si può fare, questa che abbiamo appena sentito è Si può dei Litfiba. Vi ricordiamo che noi cerchiamo sempre di Si può fare in musica, infatti questa è una canzone che ci è stata segnalata da Luca Colella su Facebook. Cerchiamo di Si può fare in musica, che cosa significa? Che se siete dei cantanti, dei musicisti, dei compositori o anche semplicemente degli ascoltatori e in una canzone ravvisate che è ben racchiuso il concetto di Si può fare, vi chiediamo di segnalarcela, perché così noi facciamo sentire questa canzone, la mettiamo nella nostra playlist, le ritrovate tutti sul nostro Facebook. Ce la potete segnalare mandandoci una mail a sipuofare@radio24.it oppure sui nostri account social, quindi su Facebook sipuofare_radio24 oppure su Twitter @sipuofare24 oppure sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e c'è anche il mio @AleMaurizzi. Io vorrei riavere la mia cascata di riccioli, che bei tempi, potrei essere io a dire questa frase, ma non sono io, è Marco che ci scrive al 349-238-6666, classe 1969. Marco, io ti capisco perché condivido con te questo effetto nostalgia, però cerchiamo qualcosa di un po' più ampio. Ma no, pensa, volevo leggere lo stesso messaggio, perché secondo me hai fatto molto bene, perché va bene la nostalgia, come però, stiamo cercando programmi che vi mancano, quindi vi stiamo chiedendo a tutti voi quali sono il programma del passato che vi manca, come rischia della nostra tutto. Storia comune. Esatto, però io invece volevo anch'io spezzare una lancia per Marco 69 che dice io vorrei riavere la mia cascata di riccioli, che bei tempi. È legittimo. Allora, abbiamo avuto Portobello, abbiamo avuto quelli della notte che hanno chiamato, adesso magari mi ricordo male io, c'è qualcun altro che ha detto qualche altro programma, Carlo, che tu ti ricordi. Adesso andiamo con gli ascoltatori. Sì, vado? Sì, Elena dalla provincia di Modena, buongiorno, benvenuta Elena. Buongiorno. Prego. Buongiorno, buongiorno, sono qui. Eccola qui, anche noi siamo qui. Bravi, buongiorno. Bravi, grazie, bravi. Grazie. Di cosa volevi parlare, nostalgia, Elena? La mia nostalgia. Qual è la tua nostalgia? Prosa, prosa. Prose? Da il Eduardo teatro. Non vorrei dirli tutti i nomi, vorrei dirli tutti. E in radio c'era. In radio. C'era. Eh sì, anche i radiodrammi. Io ricordo bene in TV tutto. Facevano vedere molto teatro su alcuni canali, sì. Rai. Poi anche Edoardo. Lì è morta, la TV è morta. Morta. La TV morta. È morta, ci ha chiamato per dirci questo. La TV è morta, viva la radio sempre. Beh, anche in radio andrebbe recuperato, perché un tempo la Rai faceva proprio i radiodrammi, faceva anche Tre Sorelle di Chekhov, per intenderci, insomma, non solamente meraviglia, cose. Meraviglia. Ma sai, dal punto di vista della Rai, Elena, non sarebbe male. Adesso noi parliamo della Rai perché è il servizio pubblico di riferimento un po' per tutti i cittadini, anche perché il teatro in TV non è una delle cose più costose da fare, no? Sono più costosi i programmi, comunque, dove devi invitare delle persone, pagare dei compensi. Però... non dicono niente per il pubblico. E poi non sono Edoardo. E poi non sono Edoardo. Ah, che meraviglia. Io sono cresciuta con la radio. Cresciuta, nata con la radio, cresciuta con la radio, sempre in casa, sempre. Mio padre comprò. Brava. E va tutto così, bene, Elena. Sta bene? Com'è? E sta bene, dico, possiamo dire al mondo che si può crescere solo con la radio? Perfetto. Anzi, senti com'è arzilla, Elena, com'è, che entusiasmo che ha. Questa è la dimostrazione che la radio fa bene, Radio 24 in particolare fa ancora più bene. Mio padre comprò a noi ragazzini, eravamo bimbi, la radio per il primo festival. Di Sanremo? Sì. E ce l'ascoltammo tutti lì in adorazione. Beh, questa è una bellissima storia. Se stessimo cercando storie di nostalgia, avrebbe già vinto i biglietti. Adesso è in ballottaggio. Adesso è in ballottaggio, Elena, resti con noi, che tra un po', in chiusura di puntata, poi diremo chi vince. Grazie, Elena. C'è mille. Un whatsappino, carino, da Massimo, che dice: buongiorno a voi da Bruxelles. Come testimonianza sull'educazione sessuale, a nostra figlia teenager hanno fatto un'ottima lezione presso la scuola europea, dove un team specializzato ha affrontato con estrema serietà la classe, sia in modo differenziato, solo maschi e solo femmine, e poi coralmente. Questo credo che accada a Bruxelles, però non in Italia. No, in Italia accade alla scuola tedesca che io ho frequentato, come vi ricordiamo. Facevate, vero? Sì, corsi di educazione sessuale si fanno alla scuola tedesca. Antonella da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che anche nella scuola italiana comunque si fa educazione sessuale. Giusto. E si fa in un modo utilizzando giustamente gli operatori sanitari, quindi i medici, i ginecologi, le ostetriche, gli ostetrici, che affrontano l'argomento con gli allievi, io insegno in una scuola superiore del biennio, cioè prima, seconda. Ma in tutte le scuole? Un progetto ben preciso che si chiama educazione alla salute. Ah, ma avviene in tutte le scuole questo, mi scusi? Scusi? Avviene in tutte le scuole? Nelle scuole superiori certamente esistono i progetti di educazione alla salute nella scuola pubblica, e quasi tutte, che sappia io almeno, io lavoro... Ma lei è un'operatrice, Antonella? No, io sono una docente. Una docente. Insegnante. E nella sua scuola, a che età, in che classe, fra il primo e il quinto, arrivano? Seconda superiore. In seconda superiore. Cioè, nella sua scuola, regolarmente, in seconda superiore, i ragazzi fanno... Tutti gli anni viene fatto un progetto, però io volevo... Però, scusi, Antonella, si tratta di progetti. Ma quante ore, infatti? No, ma guardi il progetto... Non tutte le scuole, volevo dire questo. Sono incontri. Sì, non tutte le scuole, volevo dire, fanno... questi progetti che restano delle iniziative magari previste dai piani formativi, ma non tutti le fanno allo stesso modo. Questo quello potrebbe anche essere vero, però io le dico che da un punto di vista generale nella scuola pubblica, perché io insegno in una scuola pubblica, ma noi di questo il problema è sentito, perché quel problema sollevato da questa ragazzina è un problema che si verifica tantissimo, si verifica purtroppo, ma non è legato, mi scusi, alla disinformazione. Questo lo dice lei, però questa ragazzi, è la sua opinione. Sì. No, guardi, questi ragazzi sono bombardati di immagini eroticizzanti. Sì. Cioè che a maggior ragione, però, serve allora l'educazione, Antonella. Sono molto sbalorditi e hanno bisogno anche di un'educazione all'affettività, al rispetto dell'altro. Giusto. Ma guardi che l'educazione alla sessualità di cui parla Quattrini è molto legata all'educazione all'affettività. Le due cose sono unite. Cioè, il nostro progetto si chiama Amare con il cuore e con la mente. Va bene, Antonella. Per cui voglio grazie per questa testimonianza, che ci dice che in alcune scuole, nella sua in particolare, i corsi vengono fatti regolarmente. Intanto Ennio da Bergamo dice: rivorrei Colpo grosso di Smaila. Ti ricordi? Certo. A proposito di immagini erotizzanti, volevi dire? No, per ricordare che è vero, oggi insomma con internet c'è un accesso totale alle immagini, però non è che le immagini erotizzanti prima non esistessero. cioè guardi che i ragazzi sono molto disorientati, sono, hanno degli input troppo forti e soprattutto fuorvianti, che li porta ad essere così. Sono delle vittime di una società che è consumistica. Va bene, Antonella, dobbiamo fermarci qua. Abbiamo la pausa. Grazie per essere stata con noi. Altri ascoltatori dopo, tra poco, all'800 24 00 24. Anche, vi ricordo, per il vostro effetto nostalgia in TV. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Prendi tutti i fiori che hai, bruciali. Se riuscirai a non farli crescere mai, sarai sulla via dell'amore. Prendi tutti i soldi che hai, buttali. Se riuscirai a non rimpiangerli mai, sarai la via dell'amore. Buongiorno al sindaco di Rio Maggiore, Cinque Terre, Franca Cantrigliani. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Eccola. Buongiorno. Qua. Siamo riusciti a trovare una canzone che si chiama La via dell'amore. Oh, bello. Ma soprattutto che dice: prendi tutti i soldi che hai, buttali via, se riuscirai a non rimpiangerli mai, allora sarai sulla via dell'amore. Quindi quale canzone? Esatto, direi che i soldi, si parla di 16 milioni, ecco. Ma per ristrutturarla però, perché questa è una vicenda. Adesso abbiamo chiamato il sindaco che ha fatto una proposta di finanziare con un project financing la ristrutturazione della via dell'amore, che è chiusa da un po' di tempo. Quando, che anno era quando quelle turiste australiane rischiarono con un crollo di brutto? 24 settembre del 2012. Da allora la via dell'amore, mi corregga se sbaglio, è tutta chiusa, chiusa in parte o... Chiusa in parte all'infuori di 200 metri paralleli alla stazione di Manarola. Ecco, allora dietro... E sono stati ristrutturati con il finanziamento di RFI. Sì. E con un'altra parte minore, 500.000 euro, di Regione Liguria. Ok, dietro a questa vicenda c'è una vicenda anche lunga, politica, giudiziaria, con il sindaco di Rio Maggiore, diventato poi presidente del Parco Cinque Terre, il passaggio del controllo della Via dell'Amore al punto di vista della gestione anche economica, del biglietto 3 euro che si pagava, che era passato dal comune al Parco Cinque Terre, inchieste, arresti, commissariamenti e quant'altro. Adesso lasciamo da parte questa vicenda, se vuole fare dei riferimenti, ma è difficile per chi non la conosce entrare nel merito di tutti questi dettagli. Oggi il sindaco Franca Cantrigliani, da qualche anno sindaco di Rio Maggiore, fa una proposta e noi che siamo Si Può Fare vogliamo che lei la faccia a tutti gli ascoltatori, sindaco. Ecco, io intanto annuncio che il 3 maggio alle 10.30 al Castello di Rio Maggiore ci sarà la convocazione della conferenza dei servizi preliminari, quindi c'è un primo incontro e quindi l'esame di quello che è il piano di fattibilità per la mitigazione del rischio della Via dell'Amore, una strada comunale e pedonale che congiunge Manarola con Rio Maggiore, sarà sottoposta a tutti gli organi previsti dalla 241, quindi dalla Regione Liguria, dalla Sovrintendenza, dall'Ente Parco, dall'Agenzia del Demanio, sì, dalla Provincia di Spezia, dalla Capitaneria e da RFI. Però ci faccia, non ci faccia troppo l'elenco degli enti coinvolti, perché siamo in Italia, sappiamo che questi elenchi sono lunghi. Qual è la proposta che lei fa per ridare vita ad una via, una delle vie più conosciute al mondo, che attira ogni anno 1 milione, forse 2 di turisti, attirava più quando era ancora aperta? Il Comune di Rio Maggiore, come penso qualsiasi altro ente comunale, non ha la disponibilità di 16 milioni di euro per questa mitigazione del rischio e quindi rendere sicura e fruibile la strada. Si è ritrovata a fare un project financing, cioè quando ci sarà il momento delle gare parteciperanno le ditte che sono eventualmente interessate, ci saranno 2 ore, ci saranno 2 anni di lavoro. E poi la considerazione della gestione per 13 oppure anni minori a seconda di quello che sarà il flusso su questa strada. Chiaramente si va a foraggiare con quello che è il costo del pedaggio. La Via dell'Amore è diventata un monumento dal 2015 e di conseguenza è un itinerario non soltanto diciamo turistico ma anche monumentale. Ma in realtà quindi la questione, giustamente lei dice, il comune i 16 milioni non ce li ha. Credo che il dubbio un po' per tutti sia nel momento in cui questa Via dell'Amore ha 1 o 2 milioni di persone che tutti gli anni ci vanno, a 3 euro diventerebbero 6 milioni di euro all'anno, in 13 anni se ne tirerebbero su quasi 100 di milioni, quindi perché dare la concessione a qualcun altro che invece pagherebbe solamente i 16 milioni e poi si fa i 100 milioni negli anni successivi? Beh, insomma, questo è, noi a parte il fatto che abbiamo considerato una, un pedaggio prudenziale che è al di sotto del milione di visitatori, certo. Però il comune si ritrova ad essere continuamente vigile, nel senso che il numero degli anni di gestione può essere inferiore se chiaramente il privato si ritrova a recuperare diciamo questi soldi, no, che lui si è ritrovato ad investire per un periodo minore. Certo, no, ma infatti se si prevede un accordo di questo tipo, credo che sarebbe molto meglio, nel senso che lei giustamente dice se il privato recupera i soldi in tempo brevissimo, basta che in questo contratto esista una clausola per cui il comune torna dentro anche a incassare dei soldi, molto semplicemente. Ma infatti questo è soltanto uno studio di fattibilità, non è ancora la gara vera e propria, perché con la gara poi si andrà eventualmente a fare le considerazioni con la ditta che riuscirà a vincere. Certo, ci chiedevamo come mai invece il presidente del parco diciamo non fosse d'accordo con questa ipotesi. Ma sinceramente il presidente del parco, in quanto rappresenta l'ente parco, si ritroverà ad avere il suo ruolo all'interno della conferenza dei servizi e lì si esprimerà. Quello che esprime mi pare in questo momento mi pare che sia fuori da quello che è la sua competenza. Senta, insomma, la sua proposta è questa, al merito di essere una proposta in una situazione nella quale la Via dell'Amore, un elemento di attrazione turistica importantissimo, ripeto, è chiusa al momento, nessuno ha messo a disposizione i fondi per fare questa messa in sicurezza, perché non possiamo neanche far andare i turisti in una strada che certo. È pericolante. Qualche passo però è stato già ottenuto e fatto, per esempio il ministro Franceschini l'ha inserita nell'elenco dei beni di interessi culturali. Non è che da questo potrebbe arrivare anche un interessamento economico del governo che ci mette i soldi? Ben disponibili, perché ci ritroviamo ad essere disponibili verso il soldo pubblico e verso il soldo privato. Certo, giustamente non si butta via niente. Ovviamente, certo. E quindi se arrivassero, lei dice, noi a Rio Maggiore siamo qua. Certo. E il problema è se arrivano. No, infatti, il mio era quasi un appello, un invito a qualcuno del ministero e dintorni che ci sta ascoltando. Se avete inserito la Via dell'Amore tra i monumenti, i siti monumentali importanti, e lo è perché attira ogni anno più turisti, forse adesso la sparo, degli Uffizi, magari del decimo museo italiano, perché gli Uffizi sono il primo, ecco, siamo a questo livello, allora forse vale la pena investirci qualcosa e tirare un po' fuori anche dai guai il sindaco di Rio Maggiore, capite che è un piccolo paese, in qualche modo vuole affrontare questa questione, ma da soli non possono avere gli strumenti per farlo. Noi la ringraziamo intanto, sindaco Cantrigliani, in bocca al lupo per la Via dell'Amore e che si trovi una soluzione. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille, buona giornata. A risentirci. E allora, Massimiliano da Vicenza, l'800240024 per parlare di cosa? Massimiliano, buongiorno. Buongiorno a voi. Io volevo intervenire solo per la nostalgia di un programma che abbiamo visto abbastanza tutti nel suo tempo, che era quello di Corrado Mantoni, La Corrida, la prima serie che è andata in onda dall'86, se non ricordo, sì, fino al 97. Eccolo, senti, molto bella, senti. Perché appunto piaceva tantissimo, senti, vedere qua proprio questo personaggio, come riusciva a portare in gioco le persone. È straordinario, le facce di Corrado che muovendo un sopracciglio faceva capire tutto, è vero. Poi era bello anche il programma, come veniva impostato, sì, con questo primo semaforo che poi lanciava il segnale, il trombone o i fischi del pubblico. Molto bello vedere questo, appunto, mettersi in gioco delle persone all'epoca, io dico, perché probabilmente erano i primi programmi di forma così televisivi interessanti. Insomma, viene fuori, grazie Massimiliano, anche a lei viene fuori un quadro fra Portobello, quelli della notte, la corrida, di una TV com'era, Carlo, più più sfumata, più dosata, più morigerata, che con poco, adesso io ho detto il sopracciglio di Corrado, ma è vero, no, è con molto poco vero, però bisogna anche ricordarsi, secondo me, rivedendo il Rischiatutto un po' ce ne si rende anche conto che sono cambiati i tempi di, certo, fruizione, queste anche quindi non tutto questo così, a parlarne è sempre è molto facile, bello, nostalgico. Poi se le vedi molte volte rischi di capire che c'è, dire, un ritmo lentissimo, posso dire che, che non siamo più, insomma, per loro, ormai in 5 minuti noi siamo abituati ad avere una quantità di informazioni incredibile, quindi se per 28 minuti l'informazione ne passa una, è più facile che ci annoiamo. Non sto dicendo che sia meglio, che sia peggio, semplicemente che certe cose sono cambiate. I critici l'hanno un po' scritto che era Rischiatutto, che pure ha avuto un bel 30% di share, era un po' tendenzialmente noiosetto, piace, sì, a quel pubblico lì, sì, ma non ci si può dimenticare, negli anni 70 era diverso anche la fruizione, stavi a casa, guardavi questo anche come un elemento di novità, ti interessava vedere la persona che vinceva, adesso concorsi, quiz, ce n'hai tutti i momenti, quindi dobbiamo, non c'è nemmeno quello. Ci fanno cenni in regia, traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. If you were the Mona Lisa, you'd be hanging in the Louvre. Everyone would come to see you. You'd be impossible to move. To me, that's what you are, a rare and priceless work of art. You stay behind your velvet robe, but I will not renounce all hope, and I'm right by your side. Questa è Madonna, Masterpiece. Mi rendo conto adesso che nella settimana in cui è scomparso Prince non abbiamo messo una colonna sonora dedicata a Prince. Ci pensiamo nella puntata di domani, certo, giusto farlo, certo. Sapete che noi cerchiamo sempre un collegamento tra le musiche e gli argomenti di cui parliamo. Capolavoro. Ma perché speriamo che non sia morto, in realtà, con tutto questo mistero che c'è. In realtà anche pensiamo che vero, sia vivo su un'isola insieme a Elvis. Speriamo. Allora, anche qua siamo nel campo dei privati che danno una mano alla cultura. Questa è un'iniziativa della OVS, Arts of Italy. OVS promuove il dialogo tra arte e moda. Ci sono dei capi d'abbigliamento che riportano delle parti di opere d'arte italiane e una parte del ricavato andrà proprio ai beni culturali italiani. C'è un accordo col ministro Franceschini. Noi diamo il buongiorno e il benvenuto a Francesco Sama, direttore generale di OVS. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, non so, i mosaici della cattedrale di Salerno, per esempio, si trasformeranno in che cosa? Beh, i mosaici della cattedrale di Salerno sono diventati un pattern per una gonna e un abito bellissimi da donna. Questo ci dà un po' lo spunto di come la cultura italiana, in realtà diffusa in tutto il territorio, sì, e che fa parte del nostro patrimonio, in qualche modo abbia un legame emotivo e creativo anche con la moda. Certo. E come questo faccia parte della nostra storia, anche inconsapevole, e se non, certo, altro per il fatto di frequentare dei luoghi o di essere cresciuti in dei borghi o in delle città che ci hanno educato alla sensibilità del bello e che ci hanno dato questo tipo di opportunità, e che è un'opportunità unica per l'Italia. Allora, io leggo ancora, per esempio, il rosone di pietra della chiesa di San Pietro di Tuscania, in provincia di Viterbo, viene riletto, ripetuto all'infinito nella trama di pizzi che verranno usati anche qui per fare degli abitini, credo sempre da donna. Sono solo abiti da donna o ancora avete coinvolto, no, anche la moda maschile? La collezione coinvolge 20 pezzi uomo e 20 pezzi, okay, donna, okay, e la cosa che è anche curiosa è che riprende dei micro dettagli di queste grandi opere diffuse sul territorio proprio anche per la valorizzazione del particolare, del dettaglio. A volte è un rosone, a volte è un mosaico, a volte sono dei dipinti che vengono in qualche dettaglio riportati all'interno del prodotto. E una parte del ricavato è chiaramente un'iniziativa che la OVS fa, per un'iniziativa, possiamo dire anche di marketing, ma è un'iniziativa nella quale voi andate a donare una parte del ricavato proprio al Ministero dei Beni Culturali per restaurare queste opere o anche altre opere, Sama? Allora, stiamo selezionando sia con i beni culturali sia con il nostro curatore, che è Davide Rampello, che ci ha condotto in questo percorso di riscoperta delle opere italiane, quelle che sono le attività di intervento, e la profondità e il numero di interventi che riusciremo a fare sarà legato a quanto riusciremo a raccogliere. Noi dedicheremo una parte consistente del ricavato dall'operazione al recupero, alla valorizzazione di parte di queste opere, quindi più del 10% sarà dedicato a questo, e il numero di attività che riusciremo a compiere sarà appunto legato a quanto riusciremo a raccogliere. A quanto andrà bene. Quindi sta a noi, a questo punto sta a noi che dobbiamo comprare. Ecco, un'altra cosa, se ho un minuto che volevo dire. Meno di un minuto. Ci piace anche l'idea che tutti noi diamo maggiore attenzione e valorizzazione all'arte che è vicino a noi. A volte anche nelle città che sono diffuse in tutta Italia, non sempre noi abbiamo la consapevolezza di questo. Di quello che abbiamo quando camminiamo, di quello che c'è a fianco a noi. Solo la data dalla quale questi capi OVS saranno in vendita. I capi OVS saranno in vendita dal 19 maggio presso l'e-commerce e dal 20 maggio in tutti i negozi. Benissimo, quindi cari ascoltatori, non abbiamo più tempo, mi scusi Sama, dico io una cosa: dal 20 maggio, cari ascoltatori, andate nei negozi, se volete, OVS, cercate questi capi speciali, acquistandoli sappiate che donate una parte ai beni culturali italiani che ne hanno bisogno. È tutto. Dobbiamo dare il vincitore e vincere Massimiliano da Vicenza, che proprio proponeva la corrida. Esatto, ed è anche una questione di affetto. Siamo in radio, la corrida è iniziato in radio, in realtà un format radiofonico che poi ha trasmigrato in televisione, quindi anche un po' per affetto abbiamo deciso che fosse il vincitore migliore. Premiare la corrida come effetto nostalgia. Grazie a tutti. Massimiliano da Vicenza, grazie noi a tutti. Ci risentiamo domani 8:30-10 con Si può fare. Un ringraziamento entrato ad Andrea Piano, autore insieme a noi del programma, Claudia Schiattone in redazione, Peter Bescapè, regia.